Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette e dieci minuti, inizia la prima puntata della settimana di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria parleremo, lo facciamo ogni anno quando esce un rapporto che ormai è un classico in questo paese, mi riferisco alla classifica sulla qualità della vita nelle province italiane, elaborata ogni anno dal Sole 24 Ore. Trovate ampio risalto oggi sul quotidiano. Faccio notare che le due notizie riguardano da un lato Bolzano, perché è di nuovo tornata in vetta la classifica della qualità della vita, che unisce tanti aspetti: tenore di vita, affari e lavoro, servizi ambiente e salute, i dati anagrafici, demografici, l'ordine pubblico, quindi dati anche legati alla microcriminalità, e il tempo libero. Non è la voce solo sulla ricchezza, se no una classifica la fa l'Istat, ma è una classifica sulla qualità della vita. Dicevo, Bolzano che è tornata al primo posto e Milano che ha fatto un balzo, sarà la Expo, saranno gli investimenti, dall'ottavo al secondo posto. Lo sottolineo perché io non sono milanese, noi la radio trasmette da Milano e da Roma, per cui siamo abbastanza oggettivi su questo, però è abbastanza raro trovare una grande città così in alto nella classifica. Tipicamente nella classifica del Sole 24 Ore di solito la qualità della vita migliore si aveva nei centri medi, ecco, non nei grandi. Infatti dopo Milano c'è Trento, Firenze, Sondrio, Olbia, Tempo, Pausania, Cuneo, Aosta, Siena e Ravenna, i primi 10. Poi c'è anche Macerata che è all'11° posto. C'è un predominio del centro-nord, ma con più di un'eccezione, perché ci sono anche città del centro-nord che sono basse nella classifica e viceversa. Certo che, visto che le voci riguardano l'andamento dell'occupazione, per esempio, o il tenore di vita e il reddito pro capite, là dove c'è maggiore occupazione e maggiore reddito si tende a essere un po' più alti nella classifica, però non è sempre vero così. Faccio notare che Alessandria, la cito a caso, o Asti sono rispettivamente al 72esimo e al 75esimo posto, e ci sono invece Cagliari al 39esimo piuttosto che altre Ascoli Piceno al 21esimo, quindi non è così automatica la distribuzione geografica nella classifica. Poi parleremo invece anche di un'operazione importante che non siamo riusciti a coprire venerdì scorso, e quindi un'operazione che ha visto il gruppo Gavio acquisire il controllo del gruppo autostradale brasiliano Ecorodovias, un aumento di capitale da 530 milioni, e si tratta del terzo operatore del settore nel Sud America, gestisce quasi 1900 km di rete autostradale. E poi anche la vicenda che riguarda da un lato Veneto Banca. Dovremo avere ospite il governatore della regione Veneto, Luca Zaia, che su questo insomma sta cercando di mettere una pezza, mettiamola così, a quello che potrebbe capitare sia con Veneto Banca e con Popolare di Vicenza. Sono casi diversissimi da quelli delle quattro banche tra virgolette salvate, e anche oggi andremo a raccontare un po' di cose su questo. Perché in questo caso non ci sono obbligazioni subordinate, non c'è una banca che deve essere, gli aumenti di capitale li hanno già approvati, ma ci sono le azioni vendute ai correntisti, o meglio a chi chiedeva un mutuo, secondo le accuse che vengono mosse da più parti, un mutuo, un fido in cambio di acquisto di azioni collocate da due titoli che non sono quotati in borsa, quindi il valore dell'azione era deciso in maniera molto arbitraria dal CDA. Nel caso della Vicenza, 62,5 euro, siamo alla metà, e secondo tutti gli osservatori che studiano un'eventuale due diligence, quando si dovesse andare a una fusione si arriverebbe probabilmente a 10-12, c'è chi dice 7-8 euro per azione. Quindi in questo caso non c'è un problema di bail-in, c'è un problema di tensioni sociali che si potrebbero registrare. Questo non si è verificato, stante le cronache, con l'assemblea di Veneto Banca. Ma insomma, vorremmo capire anche prima di per non parlarne poi, iniziamo a parlarne adesso, mettiamola in questo modo. Voto bulgaro, alcuni hanno scritto sabato scorso a Volpago nel Montello all'Assemblea dei Soci, il 97% ha votato il sì a trasformare in SPA Veneto Banca, che quindi non è più una popolare, come c'è la legge che lo prevede, comunque occorre il voto. 11.102 voti a favore su 11.430 voti comprese le deleghe, quindi fine della regola di una testa un voto, fine del limite al possesso di azioni e quant'altro. Arriverà poi anche un aumento di capitale per 1 miliardo in primavera e poi lo sbarco in borsa tra, appunto, nei prossimi mesi. Queste sono le tappe per Veneto Banca. Non è ancora chiaro quale possa essere il voto dell'azione. In questo momento il diritto di recesso è fissato a 7,3 euro, non esercitabile per mancanza di capitale. Faccio notare che anche in questo caso le azioni furono vendute in molti casi a 40 euro. Ne parleremo e ci sono state anche le ispezioni della Banca Centrale Europea nei confronti di Veneto Banca come della Popolare di Vicenza. 349-238-6666 per i vostri SMS, per WhatsApp, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24 e subito le notizie in breve. Allora, alcuni di voi contestano Firenze al quarto posto. Adesso arriviamo alla classifica del Sole 24 Ore. Non ho mai detto che Ascoli Piceno sia al sud. Un po' di geografia la conosco anch'io. No, ho detto solo che se uno immagina che la distribuzione della classifica del Sole rispecchi la ricchezza del paese, sbaglia. Ci sono quelle variabili, chiaro, ma ce ne sono anche altre. Volete sapere qual è l'ultima? L'ultima è Reggio Calabria, che è al 110° posto. In realtà ha perso 4 posizioni, era al 106° posto. Sto cercando di capire chi fosse al 110° posto l'anno scorso, non riesco a trovare adesso. Vi darò anche questa informazione. Reggio Calabria era al 106°, perde 4 posizioni, va appunto al 110° posto. Segue Vibo Valentia, che di posizione ne perde 12, e Caserta, che ne perde 4, come Taranto. Palermo ne perde 11 di posizioni, e Lecce ne perde 5 ed è al quintultimo posto, e poi c'è Foggia che invece recupera qualcosa. Allora, la borsa, iniziamo dalla borsa. Invariata Milano, meno 0,5, Parigi e anche Francoforte, Londra più 0,5, il Dow Jones più 0,30. Euro, un leggero rafforzamento a 1,092. Tra i titoli segnalo Moncler perde il 3,36%, A2A il 2,44%, Luxottica perde l'1,20% come Enel Green Power e Anima Holding, Buzzi Unicem perde l'1,1 come Enel e Telecom Italia, e il Banco Popolare Ferragamo perde l'1%. Fronte opposto Unipolsai più 1,1, Unicredit più 1 come Stima Electronics, lo 0,80 lo guadagna Intesa, lo 0,70 Prismian e anche Mediobanca, lo 0,60 il rialzo di Mediaset e della Popolare di Milano. Il petrolio, restiamo sull'economia internazionale, è sotto i $34, parliamo del WTI, quello americano. Il Brent, quello del Mare del Nord britannico che si usa in Europa, è sceso ai minimi da 11 anni a questa parte. Nel senso che il WTI è a $34 per la prima volta da 7 anni. Tutto in calo praticamente. Addirittura il WTI era arrivato a un minimo di $33,98, non accadeva dal febbraio del 2009. Faccio presente che il febbraio del 2009 si era fermato il mondo, le famose foto dei cargo davanti al porto di Anversa che non sbarcavano perché non gli conveniva neanche scaricare le merci. Cioè eravamo proprio da un punto di vista così qualche ora dopo Lehman Brothers, se uno vuole raccontarle in questo modo. È chiaro che il petrolio lì crollò. Altra cosa è vedere un petrolio a $33-34 adesso, che obiettivamente, seppure un po' in rallentamento, le previsioni sono di una crescita anche per il 2016. Nel frattempo il Financial Times oggi riporta un dato interessante, cioè nel 2015 le fusioni e le acquisizioni a livello globale hanno toccato i massimi da sempre, quindi è un periodo in cui un po' perché alcune cose si compravano a sconto, un po' perché c'è tanta liquidità, che poi le banche non sanno come impiegare in Europa, ma anche in America se ne è generata tanta, insomma il dato di fatto è che nel 2015 si sono superati anche i volumi del 2007, quota 4.600 miliardi di dollari di tra fusioni e acquisizioni nel 2015 contro i 4.300 miliardi di 8 anni fa. E poi JP Morgan che ha patteggiato e si è impegnata a pagare una multa da 150 milioni di dollari per risolvere le azioni legali sulla perdita della cosiddetta balena di Londra. Cos'è la balena di Londra? È un trader, lui si chiama Bruno Ixhill, che aveva assunto posizioni talmente importanti sul mercato dei derivati da influenzare l'andamento, quindi le perdite sono risultate pari a 62 miliardi di dollari, la causa legale rischiava di essere carissima, ha patteggiato per 150 milioni di dollari JP Morgan. Della serie, poi magari un giorno ritorneremo, che le grandi banche d'affari sono tornate più o meno a fare quello che facevano prima. Comunque, prima della crisi, andiamo in Spagna, dove sapete la notizia, c'è il nostro Sergio Nava che l'ha raccontata, e cioè i popolari del premio uscito Mariano Rajoy sono risultati di primo partito alle elezioni politiche col 28,7%, quindi Rajoy vince ma senza una vera maggioranza, hanno perso la maggioranza assoluta dei seggi, ne hanno solo 123, secondi i socialisti con il 22% e 96 seggi, terzi gli indignados di Podemos con il 20,6% dei seggi e dei voti e 69 seggi, quarti i centristi di Ciudadanos con il 14% quasi 40 seggi. Nessun partito potrà governare da solo, le coalizioni possibili le avete già lette, in alcuni casi i socialisti e Podemos non arrivano ai 176 seggi necessari. C'è chi ipotizza anche una grossa coalizione con dentro sia i popolari che i socialisti, c'è una coalizione possibile con i popolari e i centristi, però insomma la grossa coalizione, la coalizione allargata, non dico che si faccia sempre più strada, ma resta un'ipotesi altamente probabile. Chiaramente se Rajoy non riesce a trovare una quadra, una maggioranza, si torna alle elezioni. Tra l'altro, sulle prospettive economiche del paese e anche sui rapporti commerciali tra Spagna e Italia, il nostro Sergio Nava, che è appunto inviato in questi giorni a Madrid, ha intervistato il direttore generale della Italcamera di Commercio e dell'Industria Italiana per la Spagna a Madrid, Giovanni Aricò. Gli indicatori economici puntano a una ripresa del mercato. Questi indicatori ovviamente non sono poco attendibili dal punto di vista della situazione reale, della reale economia, no? Perché abbiamo ancora un tasso di disoccupazione al 23%. Quindi è difficile capire se, quando e se produrranno risultati. Sicuramente sono degli indicatori che ormai da 2 anni quasi indicano una ripresa, e quindi tutti ci auguriamo che sia consolidata. Le stime parlano di un 2,7%, al primo trimestre del 2015 noi segnaliamo una crescita attestata quindi del 0,9, per cui potremmo essere vicini a fine anno a queste cifre, o comunque a cifre, non siamo molto molto molto lontani. Quali sono i settori che stanno trainando questa crescita? Guarda, tra i settori nuovi sicuramente il commercio estero, il turismo. L'anno scorso in Spagna abbiamo registrato 60 milioni di presenze, quindi sicuramente una quota di mercato interessante, e una ripresa dell'immobiliare dal 2011, quando sono intervenuti dei fondi di acquisizione che hanno appunto rilevato molti degli immobili ancora invenduti, e quindi sembra che adesso il mercato immobiliare ritorni a essere un mercato di punta. Passando invece ai rapporti Italia-Spagna, qual è la fotografia? Ma la fotografia attuale è sicuramente di una ripresa. Nel 2008 si è toccato un apice con quasi 40 miliardi di intercambio, oggi siamo, ci attestiamo intorno ai 26 miliardi di intercambio, quindi una ripresa netta ma importante, se si considera che nei momenti topici della crisi si era scese addirittura al di sotto del 50%. Arriviamo alla classifica delle province. L'anno scorso l'ultima era Agrigento, l'ho trovata adesso, e seguiva di poco, subito prima c'era Reggio Calabria. In realtà l'anno scorso si fermava a 107 province la classifica, ce ne sono tre nuove perché è stata considerata anche Monza e Brianza e Barletta Andria Trani, no? come sì. Nuovi ingressi e Fermo. Ma queste province, bah, non bisognava ridurle, vabbè, eliminarle, qui aumentano, i misteri del suo paese. Comunque adesso vi arriviamo, prima di tutto il PIL, perché Premier Renzi, poi ascolteremo Renzi sul tema delle banche nella seconda ora, ha detto nel 2016 faremo più dell'1,5%. Per il 2012, 13 e 14 noi abbiamo avuto il segno meno davanti, cioè il PIL è diminuito. L'indicatore di come stiamo ha segnato negativo per il 12, il 13 e il 14. Il 15 è il primo anno in cui facciamo un passettino in avanti, più 0,8. Il prossimo anno faremo più dell'1,5%. L'importante però è che ci credano gli italiani. È tutto nelle nostre mani. E oggi anche il presidente dell'Istat Alleva ha detto che sostanzialmente non ci sono dati nuovi, faremo più 0,8% quest'anno. L'unico dato nuovo è che è ripreso un po' più rispetto al resto dell'anno l'export, e questa è una cosa positiva per noi. Anche l'ABI nel rapporto di previsione AFO stima un'Italia che crescerà nel 2016 dell'1,5%, dell'1,6% nel 2017. L'associazione delle banche italiane dice l'economia è avviata verso una chiara ripresa, le sofferenze bancarie caleranno dal 2017, -3,2%, la redditività delle banche migliora, ma la ripresa è ancora ampiamente insoddisfacente. Per quello che riguarda gli utili netti dovrebbero essere oltre i 10 miliardi complessivamente, ma nel 2017. E sta tornando, secondo l'ABI, anche una ripresa degli impieghi nel 2016. Nel senso che gli impieghi bancari, i prestiti ai residenti dovrebbero crescere solo marginalmente quest'anno, più 0,1, per poi salire al 2% nel 2016. E poi l'ABI rileva che attualmente siamo in presenza di una buona ripresa del credito alle famiglie, traduco io i mutui. Beh, lì, chiaro, c'è l'immobile, garanzia. Mentre quello al settore produttivo, e aggiungo io le piccole e medie imprese soprattutto, segna ancora il passo, a causa soprattutto dell'insoddisfacente merito di credito delle imprese italiane, che c'è, ed è vero, perché alcune non hanno buon merito di credito, e anche qui aggiungo io, anche di una certa resistenza delle banche a trovare, a scoprire chi ha un progetto interessante e chi no, perché sennò diamo solo la colpa agli imprenditori che sono brutti e cattivi. Sì, ci sono anche gli imprenditori troppo piccoli, con piani, ne abbiamo parlato mille volte, senza piani industriali, senza trasparenza nelle loro imprese, che non sanno cosa vogliono fare da grandi o nella nuova era che si è aperta, diciamo, con questa crisi. Però ci sono anche banche che preferiscono dare i soldi a chi già è bello solido e non scommettere su chi ha un progetto. Poi vi arriveremo alle banche, ma vorrei lanciare i 100 secondi di Radio 24, Sole 24 Ore, trasmessi anche su Radio Dimensione Suono, proprio sugli stipendi delle banche. Il commento, perché c'è una direttiva su questo, il commento oggi è del vice direttore Alessandro Praterotti. I 100 secondi di Radio 24, Il Sole 24 Ore. con Alessandro Plateroti. Mentre il caso della Popolare dell'Etruria e delle altre tre banche salvate dal governo continua a tenere banco non solo sui mercati finanziari ma soprattutto sul fronte della politica, l'Europa stranamente si è mossa con più velocità del previsto. E su che cosa? Proprio sugli stipendi dei banchieri. Con una circolare diffusa proprio oggi, l'EBA, la European Banking Association, l'emanazione di vigilanza, diciamo così, sulle banche sistemiche della Banca Centrale Europea, ha infatti diffuso un comunicato in cui sostanzialmente fissa punto per punto ciò che le banche non dovranno fare con gli stipendi dei propri banchieri. Il punto più importante in questo senso riguarda proprio le banche sistemiche, quelle cioè che hanno una rilevanza continentale o addirittura globale. Beh, in quel caso sarà vietato dare bonus che superano più di due volte il livello dello stipendio. Non è poca cosa, perché in questo momento proprio gli stipendi sono la parte più bassa dei banchieri e la parte variabile, cioè i famosi bonus, sono quelli che arrivano a cifra 6 zeri o anche superiori. Beh, questa volta ci sarà un forte limite, quindi dovranno vedere non solo la struttura retributiva per far sì che ci sia una maggiore corrispondenza fra quella che è la paga base e quella che è la paga del CEO, ma soprattutto per un altro aspetto, evitare che proprio la caccia ai bonus sia lo strumento principale per sviluppare il rischio e per far cadere e abbassare la guardia in tutte quelle pratiche e condotte che dovrebbero essere a tutela dei correntisti e degli investitori e non a tutela di una casta. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it. Ripeto, delle banche italiane è importante, però, quanto ricordava Plateroti, è sul bonus, perché adesso non possiamo parlarne, ma c'è chi ritiene che anche molti dei deliri o delle assunzioni di rischi impropri che ha fatto Wall Street, che ha fatto la Citi e anche le banche in generale fosse dovuto a questo eccesso di parte variabile nello stipendio dei banchieri, che portava a monetizzare subito il risultato rispetto alla parte fissa dello stipendio. Vorrei chiudere però su ancora due cose che riguardano la legge di stabilità e poi passiamo alla qualità della vita e alla classifica del Sole 24 Ore. Allora, c'è un rischio, potrebbe esserci un rischio dei rimborsi nei confronti dei cittadini per il pagamento della TASI in seguito alle delibere comunali avvenute dopo l'ok bilancio, una delle possibili conseguenze dello stop alla sanatoria delle delibere comunali approvato durante l'esame della legge di stabilità alla Camera. Questo secondo i tecnici del Senato, che chiedono chiarimenti. Con l'approvazione della legge di stabilità che abolisce la TASI sulle prime case, i quasi 20 milioni di proprietari, sono 19 milioni e 700 mila, il prossimo anno risparmieranno mediamente 191 euro. Salgono a 200 euro se l'immobile è ubicato nelle città capoluogo di provincia. Il calcolo lo fa il Servizio delle Politiche Economiche e Territoriali della UIL. E poi l'innalzamento della no tax area, queste sono buone notizie, porterà più beneficio per un pensionato sotto i 75 anni che aveva un reddito di 7.750 euro. Il beneficio sarà di 245 euro e il beneficio invece che arriverà alla coppia, è sempre la UIL che fa il calcolo, una coppia con marito e moglie, per effetto delle norme della manovra sul rinnovo contrattuale, TASI, prima casa e canone RAI, potrebbe essere di 337 euro. Si calcola un lavoratore o una lavoratrice della pubblica amministrazione con un coniuge e un reddito lordo di 22.000 euro, la casa di proprietà con reddito catastale di 650 euro. Quindi è un calcolo stimato nella media, un beneficio di 337 euro. Allora, sentiamo dopo il meteo, molte le contestazioni che già vedo, ma ci sono sempre le contestazioni, come è cambiata la classifica. Soprattutto vedo che molti si chiedono, ma come cavolo fa Milano con l'inquinamento che ha, con la criminalità che comunque può avere, ad essere al secondo posto nella qualità della vita? La risposta dopo il meteo. Focus Economia. Bolzano, Milano, Trento, Firenze, Sondrio, Olbia, Tempio Pausania, Cuneo, Aosta, Siena, Ravenna. Queste le prime 10 città nella classifica finale del Sole 24 Ore. Poi dentro ogni voce, ognuna si posiziona in maniera diversa, lo dico. Le voci sono tumore di vita, affari lavoro, servizi ambiente e salute, popolazione, ordine pubblico, tempo libero. Le ultime 10 invece, vado dall'ultima, Reggio Calabria, poi Vibo Valentia, Caserta, Taranto, Palermo, Lecce, Messina, Foggia, Caltanissetta, Napoli, Catanzaro. Ah, vediamo di capire intanto come sia possibile, caro Marco Biscelli del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a voi. Che Milano sia così in alto, poi arriviamo al resto, nel senso che bisogna anche chiarire bene come e che peso hanno le singole voci che voi, i cluster, come dicono quelli che hanno studiato, che voi prendete in considerazione. Prego. Beh, gli indicatori sono 36, quindi sono tanti. Raggruppati in queste sei, diciamo, categorie. Raggruppati in queste sei macro aree. La voce, diciamo, inquinamento o smog è una delle 36 voci, che però noi non consideriamo. In che senso? Nella classifica della qualità della vita, visto che lo smog è un tema molto attuale, certo. Ed è giusto lanciare l'allarme perché ovviamente le polveri sottili sono compagne di strada, diciamo così, che è meglio tenere lontane. Però all'interno della macro categoria servizi ambiente, noi abbiamo la pagella ecologica. La pagella ecologica è il distillato di una ricerca che ogni anno fa Legambiente, conduce Legambiente, che noi ospitiamo di solito nel mese di ottobre, quindi con i dati aggiornati. Dalla pagella ecologica, Milano quindi tiene conto di smaltimento rifiuti, qualità dell'aria, qualità dell'acqua, mobilità, sostenibile o meno. Milano risulta a metà classifica, intorno al 52esimo, adesso vado a memoria, 53esimo posto, senza infamia e senza lode. Ora, tenuto conto che la pianura padana è sicuramente il posto peggiore dove vivere dal punto di vista dello smog, forse lasciando fuori Pechino e Nuova Delhi, la posizione di Milano non è proprio così negativa. Ma c'è un altro dato sempre all'interno, diciamo, di questa classifica che è sorprendente, perché per longevità per speranza di vita Milano è al secondo e al dodicesimo posto, quindi vuol dire che nonostante l'inquinamento a Milano la speranza di vita è molto alta, quindi probabilmente è chiaro, la cronaca di oggi ci colpisce ed è giusto che ci colpisca, e 52 giorni senza un millimetro d'acqua era una cosa che non capitava da non so quanti anni, e questo non me lo ricordo. Però ripeto, l'inquinamento, una cosa che noi avvertiamo immediatamente, è una delle 36 voci. Milano, una delle 6 per la categoria qualità della vita, immagino, no? Entra nella qualità della vita, nel tenore di vita. Questa entra nei servizi ambiente servizi, e salute, esattamente. Sì, sì, no. Ad esempio, il tenore di vita, visto che è stato ricordato, Milano qui si posiziona in un ranking di assoluto primato, perché dal punto di vista del valore aggiunto, dal punto di vista dell'erogazione delle pensioni medie, Milano è nettamente in testa. Ha dei valori. Comunque io rimando, perché il rapporto, adesso lo dico per tutti, è composto con la classifica generale, poi c'è per ogni voce, in questo caso parliamo di servizi ambiente e salute, c'è sei classifiche, cioè c'è la classifica complessiva per ogni voce e le sei classifiche a seconda delle varie voci. Faccio un esempio: noi abbiamo visto che Milano è al primo posto, è al secondo posto nella classifica complessiva, però se io prendo la voce servizi ambiente e salute, ho la classifica complessiva solo per questa voce. E vediamo al primo posto Monza e Brianza, poi Ravenna, Bologna, Milano, Como, Gorizia, Forlì, Cesena, Pisa, Lecco e il Medio Campidano, okay? Che è, per chi non lo sapesse, in Sardegna, perché alcuni hanno ancora. Ok, poi per le singole voci all'interno della categoria servizi ambiente e salute ho altre sei classifiche, per esempio le strutture per i più piccoli, per l'infanzia, per i bambini. Primo posto Bologna, Gorizia, Parma, Modena, vado ai primi 10, Bologna, Gorizia, Parma, Modena, Ravenna, Reggio Emilia, Pisa, Firenze, Milano, Monza, Brianza e Aosta. Se invece vado a vedere il clima, trovo Trapani, Sassari, Carbonia, Vibo Valentia, Napoli, Palermo, Oristano, Ragusa, Genova e Latina, non trovo Milano. Se vado a vedere la sanità, nei primi 10 posti trovo Bergamo, Como, Monza, Brianza, Sondrio, Lecco, Brescia, Ravenna, Forlì e Medio Campidano e Bologna. Le connessioni web: Monza e Brianza al primo posto con Milano, poi Lecco, Varese, Taranto, Barletta, Andria Trani, Lodi, Enna, Trieste, Bergamo, Caltanissetta. La velocità della giustizia, altra classifica. Primo posto il Medio Campidano, che svetta comunque nella voce almeno servizi ambiente e salute. Prato, Potenza, Milano, Genova, Aosta, Trieste, Barletta, Andria Trani, Torino, Reggio Emilia. Per cui, ripetiamo, una unica classifica che è quella che poi fa notizia. Sei classifiche per ognuna delle sei categorie e dentro ognuna di queste categorie altre sei classifiche per ognuna delle voci. A casa mia fa in tutto 36 graduatorie. Ecco, è chiaro che noi possiamo ragionare solo di quella complessivamente data. Marco Biscella, qual è, al di là di Milano, la novità, le novità più importanti? Bolzano è tornata al primo posto della classifica generale, ma era al secondo, se non ricordo, o al decimo, no? Bolzano era al decimo. Ha perso un po' Trento, che è sceso al 3, Firenze ha guadagnato, sarà contento Renzi. Avete fatto una classifica renziana? No, no, assolutamente. Scherzando, perché... E che era al sedicesimo posto. Però dico, qual è le notizie nella classifica complessiva e se vuoi anche le notizie nelle singole sei voci? Non possiamo fare le 36 classifiche che avete oggi pubblicato come ogni anno. No, no, certo, quello che stavi dicendo è giusto. Se noi consideriamo tutta la classifica nella sua interezza, stiamo parlando di 4.000 numeri. Quindi la qualità della vita è la spremitura, se si può dire così, fior da fiore di 4.000 numeri. Mm. 4.000 numeri che sono le fonti ufficiali dal Ministero dell'Interno all'Istat alla Banca d'Italia, che sono rese anche omogenee, perché ci sono tante classifiche, ma che non rendono omogenee, cioè bisogna trovare anche dei criteri che consentano di... Certo. Allora, se dobbiamo proprio indicare una novità, da un anno all'altro, diciamo, possono verificarsi degli spostamenti anche molto ampi. Ne cito uno: Como ha guadagnato 33 posizioni. E uno potrebbe anche pensare, beh, ma allora a questo punto la classifica come viene fatta? La classifica della qualità della vita dura da 26 anni, è una cosa consolidata, è un marchio di fabbrica del Sole 24 Ore, ma se è consolidata non è sinonimo che è cristallizzata. Cioè ogni anno, vengono fatti degli aggiornamenti degli indicatori. Quest'anno, ad esempio, l'inflazione è stata eliminata, siamo in deflazione. Mm. L'inflazione è a livello di... No, ma spiegami quella di Como, per esempio, così capiamo tutti. Perché stavo arrivando, 33 posizioni? Infatti, stavo arrivando. Dimmi. Perché appunto uno dei criteri che abbiamo sostituito è stato proprio quello dell'inflazione, aggiungendo le spese degli italiani all'estero. E Como, come tutte le città di frontiera, ottiene un risultato notevolissimo. Como, cioè, è in buona capire, posizione. Più gli abitanti, i residenti di una certa provincia spendono all'estero, più vuole un considerato un segnale di ricchezza. È sicuramente un segnale di ricchezza, ma sta a significare che l'introduzione di un nuovo parametro, e quest'anno i parametri nuovi sono 4, sono riportati nella prima pagina della classifica, della seconda pagina della classifica della qualità della vita, sono l'appeal turistico, le spese all'estero, adesso poi gli altri due non li ricordo a memoria, perché ripeto, sono talmente tanti gli indicatori. Vai, tanto che io cerco. Sotto al titolo di apertura. Ecco, eccolo qua, PIL del territorio, indice di vecchiaia, le presenze di spettacoli e la spesa all'estero. Perfetto. Okay. Quindi l'introduzione di questi criteri ovviamente sposta, diciamo, anche gli equilibri all'interno delle classifiche. Dopo il traffico vorrei chiudere con te, in realtà magari andando rapidissimi per ognuna di queste categorie, quello che viene messo in evidenza, quello che emergeva come elemento di forza. Ho capito perché Como scala 33 posizioni, sì, diciamola tutta, però io non voglio insegnarvi a fare la classifica, è 26 anni che la fate, è chiaro che a Como spendi tanto all'estero, vai a fare benzina in Svizzera e cioè è a comprati anche. Sì, non è l'unico, diciamo, non è l'unico criterio. Mi fermo lì. Sì, ho capito, no, dico, è più facile spendere all'estero se stai a Como che se stai a Perugia, e con questa grandissima banalità lascio la linea al traffico. Focus Economia. Allora, andando alla conclusione, nella classifica partiamo dal tenore di vita, le categorie sono sei, mi dai le notizie per ognuno di queste, poi uno se la va a leggere, appunto, sono 36 classifiche complessivamente. Tenore di vita, la novità? Tenore di vita è quello che, beh, la novità non, ce ne sono poche, perché alla fin fine è soprattutto una conferma, che è la conferma ovviamente di Milano, perché Milano consolida addirittura il suo primato sia dal punto di vista del valore aggiunto che dal punto di vista dell'erogazione delle pensioni, le erogazioni medie dell'assegno previdenziale. Ma l'effetto Expo, ce lo chiedono gli ascoltatori, c'è stato o no? L'effetto Expo si vedrà soprattutto, penso, l'anno prossimo, e la stessa cosa sarà per il Giubileo, perché ovviamente è chiaro che l'effetto Expo, anche la preparazione dell'Expo, è stata sicuramente positiva per Milano, perché il punto debole di Milano, l'hai sottolineato anche tu all'inizio, è sicuramente la microcriminalità, che è il problema di tutti i grandi centri, sono accomunati tutti i grandi centri. Però l'effetto Expo in pieno, perché il bilancio nelle varie voci in cui verrà declinato, le presenze straniere, quanto si è speso, lo vedremo soprattutto l'anno prossimo, però se ne è tenuto conto. Affari lavoro c'è ancora, anche qui in questo caso, la conferma di Prato, perché a Prato così i pratesi che mi scrivono hanno un dinamismo imprenditoriale che oggi è superiore addirittura a quello del Nord-Est. Non è un fatto di quest'anno, è già un paio d'anni che Prato dimostra questa vivacità imprenditoriale. E poi servizi ambientali. Qui abbiamo la sorpresa invece vera di questa classifica, perché Monza e Brianza, che è stata fino all'anno scorso agganciata alla grande Milano, quest'anno vive di vita autonoma e si è aggiudicata subito un primato, che è quello delle interconnessioni a banda larga, interconnessioni web, Monza supera addirittura Milano. Quindi questa, diciamo che nelle singole classifiche, è la novità più rilevante. Popolazione, Olbia, Tempio, abbiamo visto anche questa Sardegna uscire abbastanza bene, devo dire la verità, nonostante le difficoltà economiche della Sardegna. Certo, no, quello che aiuta la Sardegna è ovviamente il dato della densità. Basti solo ricordare che l'Ogliastra, che arriva al secondo posto, ha una densità di 31 abitanti per chilometro quadrato, nettamente inferiore rispetto alla media nazionale, che adesso non ricordo. Tempio Pausania, non solo in questo, ma anche nel rapporto del saldo migratorio, la Sardegna, che infatti non è oggetto di grandi sbarchi, non è oggetto, insomma, diciamo che mantiene una posizione, e questo consente in quell'ambito alla Sardegna di primeggiare. Ancora due componenti, ordine pubblico e tempo libero. Ordine pubblico, anche qui la Sardegna con Nuoro vince, ma come dire, è un dato nazionale. Nei piccoli centri il controllo del territorio è più, diciamo, facile, è migliore. Le grandi città scontano, come dire, laddove c'è anche maggiore ricchezza, ovviamente sono maggiori tentazioni per chi vuole compiere delitti, azioni delittuose. Poi l'ultima voce invece è quella del tempo libero, e anche qui è una conferma, cioè Rimini, da questo punto di vista, anche con l'introduzione dei nuovi criteri, conferma ancora il suo. Solo un'ultima annotazione, che come presenze e afflussi di turisti, Roma in testa, Milano in seconda. Milano non abbiamo colto ancora tutto l'Expo, Roma avrà il Giubileo. L'anno prossimo, siccome Roma, tutti hanno detto, ma come, scivolata dal 12° al 16° posto, col Giubileo penso che l'anno prossimo Roma probabilmente avrà la possibilità di scalare un po' di classifiche. Già le buche sulle strade, ci chiedono gli ascoltatori, dove vengono conteggiate come qualità della vita, la qualità diciamo del manto stradale. Certo, la qualità del manto stradale è, se noi avessimo la possibilità di avere i dati per le 110 province, faremmo volentieri il manto stradale, ma il manto stradale neanche gli stessi comuni hanno probabilmente. Invece, per quello che riguarda, ti segnalo che il fatto che abbiate introdotto l'indicatore di quanto si spende all'estero senza distinguere tra chi abita al confine o no, sta creando un po' di maretta su WhatsApp e sugli SMS. Certo, però possiamo tranquillizzare. Mi scrivono giustamente ascoltatori di Trapani, noi dove andiamo a spendere all'estero? In Libia? Nel senso, bisogna, forse si potevano, voglio, do un minimo consiglio, anche perché noi a Sole 24 non è che ci autoincensiamo. Parametrizzare un po' meglio Como, perché che lì vadano all'estero, in Svizzera, a spendere è noto. No, cioè, è chiaro che le città di confine, come dicevo prima, possono essere avvantaggiate. Il Triestino, perché anche Trieste è avvantaggiata, è più facile che magari costa un po' meno la benzina in Slovenia. La Slovenia. No, quello sicuramente, ma andiamo al discorso di prima, che sono 36 indicatori, perché Trapani ha il vantaggio, così lo possiamo dire agli abitanti di Trapani, che le case costano nettamente meno che a Como, e lì Trapani batte nettamente Como. 1-1, palla al centro e poi giochiamo. Va bene, grazie anche a Marco Biscella del Sole 24 Ore. Io invece cambio tema completamente, perché dalle buche sulle strade alle autostrade vola molto pindarico, anche perché non stiamo parlando di strade italiane ma di autostrade brasiliane. Visto che commentiamo spesso in questo anno che il Financial Times oggi ci ricorda è un anno record da sempre, dal 2007 per fusioni e acquisizioni, commentiamo sempre le acquisizioni straniere in Italia, ripeto, non ci si può lamentare se non vengono gli stranieri, poi quando vengono ci si lamenta che vengono gli stranieri, però è anche bello ogni tanto commentare un'operazione italiana sull'estero. Mi riferisco all'accordo firmato venerdì scorso dal gruppo Gavi insieme a CR Almeida, che ha permesso il controllo del gruppo autostradale brasiliano Ecordovias, aumento di capitale da 530 milioni di euro di quello che è il terzo operatore del settore del paese sudamericano, e a STM e SIAS, quindi gruppo Gavio, avranno alla fine il 41% di Ecordovias. Siamo in collegamento con il amministratore delegato di ASTM, la holding del gruppo Gavio, sta per Autostrade Torino-Milano con l'acronimo, e mi riferisco all'ingegnere Alberto Rubegni. Buonasera ingegnere. Buonasera. Grazie. Cosa farete delle autostrade brasiliane? Allora, diciamo innanzitutto, la prima cosa che facciamo, questo è stato un investimento puramente industriale, nel senso che il gruppo Gavio è il secondo operatore italiano di autostrade, opera anche nella logistica e nei porti, e la società Ecordovias è complementare con il gruppo Gavio in quanto opera negli stessi settori contigui a quelli del gruppo Gavio, che sono concessioni, costruzioni, logistica e porti. Quindi fondamentale, questa operazione nasce da un'operazione di carattere industriale. Secondo punto, il Brasile. Il Brasile è un paese che in questo momento, negli ultimi anni, ha sofferto di un grosso svalutazione del reais, questo per i noti motivi politici e anche per un rallentamento dell'economia. Però bisogna vedere il Brasile anche quando uno fa un investimento industriale a lungo termine. A nostro avviso il Brasile è un paese dalle potenzialità enormi, è il quinto paese come estensione, è un paese con un basso tasso di motorizzazione, produttore di notevoli materie prime, quindi noi puntiamo sul fatto che il Brasile nel giro di un triennio, risolta la problematica politica, possa ripartire a essere un paese che ritorni a dare degli upside. Ecco, infatti io apprezzo, diciamo, non capisco molto di autostrade, ma il vostro coraggio, perché andare a comprare in Brasile adesso con la recessione certificata quest'anno e anche l'anno prossimo non è facile, oppure ingegnere in realtà la recessione tra virgolette vi ha reso più facile l'operazione, perché insomma, perché se lei considera, ecco, quindi mi dica, cioè, ecco, avete comprato a prezzi un po' più buoni perché il Brasile si è fermato dalla recessione. Le do solamente due numeri. Sì. Quando Ser Almeida vendette la quota di Impregilo al 19% la pagò 1 miliardo di euro. Oggi noi ricompriamo praticamente il 41%, lo paghiamo 520 milioni. Questo è dovuto a due effetti: primo, il cambio; secondo, il fatto che Almeida, quando ha comprato questa partecipazione, si è indebitato e quindi sostanzialmente la holding ha creato dei problemi alla società Ecordovias. Quindi evidentemente se avessimo comprato in un momento di massima del paese sarebbe stata un'operazione nettamente più costosa. Più costosa per voi. Secondo, il Brasile ha anche un piano di investimenti enormi, perché nonostante la recessione stanno in questo momento in tender 50 miliardi di reais di nuove concessioni, un tasso quindi di 4,20, che tasso di cambio adesso, vuol dire che stanno facendo degli investimenti in tutte, certo, le concessioni autostradali. Allora, senta, resti con noi ingegnere, perché dopo il GR24 io ho un'ultima domanda per lei, se questo è l'inizio anche di uno sviluppo internazionale e come pensate di ritornare sull'investimento in Brasile. Resti con noi ancora qualche minuto col GR24 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, e poi la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Il segnale orario vi è offerto da Unica, l'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. Deborah, ti piacciono ancora le favole? Mi piacciono sì, soprattutto adesso che è quasi Natale, ne stiamo scrivendo una insieme. Io, te, i nostri ascoltatori e Andrea Vitali. Eh sì, sino alla vigilia di Natale daremo vita a una grande favola collettiva. Ogni giorno, all'interno di Cuore e Denari, io darò un incipit nuovo e i nostri ascoltatori potranno completarlo scrivendo un pezzo di favola sul sito di Radio 24. Il migliore verrà poi letto in trasmissione e riceverà il nostro libro Secondo Canto di Natale. Focus Economia. Sette minuti, volevo concludere l'intervista con chi rappresenta il gruppo Gavio, quindi l'amministratore delegato di ASTM, Autostrade Torino-Milano, la holding del gruppo Gavio dopo l'operazione in Brasile. Dicevo, come farete i soldi in Brasile e che cosa vuol dire? Cioè, questo è un primo passo per altre acquisizioni di stampo internazionale o resterete più sull'Italia? Ma diciamo che questa sull'Italia sicuramente il gruppo è nato in Italia, continuerà a investire in Italia ove ci siano le opportunità per poter investire in Italia, perché se non ci sono opportunità è chiaro che uno deve guardare altri mercati. Come pensiamo di rientrare dall'investimento? Questa società ha un EBITDA che è 69%, quindi è una di quelle che ha il maggior EBITDA di tutte quelle che ci sono in Brasile, è il terzo operatore con 1860 chilometri, con un grande piano di investimento e di estensioni, per cui ci sono tutti i presupposti di poter estrarre il massimo valore una volta risolta la holding che era molto indebitata. Altro punto fondamentale, negli accordi che abbiamo fatto, questa diventerà una piattaforma per investire nel mercato delle concessioni non solo in Brasile ma anche nel Latino America, ovvero Messico, Colombia e quindi paesi, Cile, che sono paesi che hanno grossi piani di investimento nelle concessioni. E bisogna considerare che tutte queste aree ci sta in questo momento un cambiamento politico, l'abbiamo visto in Venezuela, l'abbiamo visto in Argentina, quindi noi siamo confidenti che questo è un investimento chiaramente di lungo periodo, chiaramente guidato da motivi industriali, perché questo consentirà anche al settore delle costruzioni del gruppo Gavio di partecipare a tutte le costruzioni dei nuovi investimenti in un rapporto di 50%, sì. Quindi la vediamo con una buona opportunità. Chiaramente in un paese che ha delle difficoltà, che però vedendo i fondamentali si vede che il debito pubblico al netto di quelle che sono le riserve è il 50%. Senti, io devo chiedere, perché lo chiedono molti ascoltatori, se avete intenzione di costruire autostrade in Brasile distruggendo foreste, siccome me ne stanno arrivando una marea di ste richieste via WhatsApp, SMS. Guardi, Ecorodovias è l'unica società che ha avuto anche da un punto di vista ambientale per le opere che ha fatto tutti gli attestati. Non è che in Brasile si va e si distruggono foreste, anche qui ci sono tutte le autorizzazioni governative, quindi tutti i progetti devono essere passati prima da un punto di vista ambientale, devono essere passati dallo Stato e poi devono essere passati dal governo. È un sistema abbastanza collaudato, quindi non credo che andremo a fare delle autostrade in Amazzonia, perché le autostrade che noi abbiamo sono nelle aree più ricche del paese, quelle che collegano Santos con San Paolo. Basta pensare che solo San Paolo fa 25 milioni di abitanti. Santos è il primo centro portuale del Sud America, quindi evidentemente queste sono i nostri, diciamo, dove abbiamo puntato. Un paese in difficoltà, un paese che riteniamo che abbia le possibilità di crescere, un'operazione industriale che porta a fattor comune l'esperienza del gruppo Gavio in tutti questi settori per ottimizzare, per internazionalizzare il gruppo e per dargli anche un futuro che non sia solo legato al nostro paese. E allora in bocca al lupo più che altro a lei, ma a tutti i 5.600 dipendenti diretti, poi ne avete altri 4.600 indiretti del gruppo Gavio, e grazie per averci illustrato l'operazione, è importante, 530 milioni di aumento di capitale, non li vediamo tutti i giorni, grazie all'ingegnere Alberto Rubegni. La La borsa, allora, vi accontentate di me? Oggi, a parte Madrid che perdeva dopo le elezioni, poco mosse le borse, c'è stato un leggero peggioramento in finale. Parigi meno 1,30, Francoforte meno 1%, Londra meno 0,30, più avanti la diretta più la mia voce sta scomparendo, vediamo di reggere ancora 20 minuti. Dicevo, Dow Jones più 0,12, Milano meno 0,60%. E allora, tra i titoli, Moncler meno 4%, A2A meno 2,50%, Luxottica meno 2% come Anima Holding, e Ferragamo l'1,80% lo perde Enel Green Power e Buzzi Unicem, ma anche Telecom. L'1,60% è il calo di Enel e di Campari. L'1,40% invece di Jux, Azimut e Popolare Emilia Romagna. Oggi bene in tutta Europa, Milano non ha fatto eccezione, per buona parte del sud i titoli del settore automobilistico e tecnologico poi hanno ritracciato, alla fine si salvano a Milano Unipol Sai più 1,14, Unipol più 0,60, Mediobanca mezzo punto, Intesa San Paolo più 0,40, Unicredit più 0,20%. Più interessante è quello che è successo tra i migliori e i peggiori in assoluto, nel senso che oggi ha recuperato molto il titolo Rizzoli Corriere della Sera più 12%, e questo anche per la presentazione del nuovo piano industriale. Il piano prevede un utile dal 2016, 60 milioni di euro di efficienze nette entro il 2018, 45 milioni dei quali intervenendo su costi esterni e 15 sul costo del lavoro. Verranno venduti alcuni asset considerati non strategici, quindi non funzionali, non parte, diciamo, del core business, dell'attività cuore, dell'attività centrale. Oltre alla spagnola Veo si indica anche Sfera, che è l'unità del gruppo che pubblica i periodici sulla prima infanzia e le nuove famiglie. Questo si legge in una nota. Prelios, anche essa bene oggi, più 5,30%, è l'ex Pirelli Immobiliare. La Consob ha dato l'ok allo scorporo delle attività immobiliari e delle attività servizi. Su A2A ci chiedete, ma in realtà era una notizia di cui parliamo da tempo. A2A oggi va particolarmente male, meno 2,50 rispetto alla media, perché scade l'esclusiva in questa settimana per l'operazione per la realizzazione di una partnership con Linea Group, e quindi il mercato si interroga, è la settimana decisiva. Ancora Poste Italiane oggi ha debuttato nel listino principale, cioè nell'S&P MIB, ma se vedo bene ha fatto, dov'è finita Poste Italiane? Comunque la variazione, eccola qua, meno 0,63% per Poste Italiane a 7,11 euro. Allora, restiamo in tema di banche e di borsa, ma non per parlare delle banche quotate. Perché? Perché insomma, sabato scorso a Volpago del Montello, in provincia di Treviso, si è tenuta l'assemblea dei soci di una delle due banche venete in grossissime difficoltà, ma ripeto, non è un problema simile alle obbligazioni subordinate, da quello che vediamo, è un problema diverso di clienti o correntisti che per avere un mutuo, un fido, hanno dovuto comprare azioni il cui prezzo, essendo le due titoli non quotati, era fissato in maniera arbitraria e molto più alto di quanto siano mai riusciti a venderlo. Faccio notare che nel caso di Veneto Banca si era a 40 euro, adesso il diritto di recesso è fissato a 7,3 euro, ma non è esercitabile per mancanza di capitale. Allora, l'assemblea è andata bene, nel senso che tutti hanno votato la trasformazione da banca del territorio, da popolare, quelle con una testa, un voto, non importava il numero di azioni che avevi, il limite al possesso azionario. Quel mondo lì è finito, nel senso che il governo con la riforma lo ha fatto finire, e alcune popolari sono già partite a trasformarsi in SPA. In realtà la Veneto Banca è la seconda, UBI è l'unica che l'ha già fatto. Voto plebiscitario, sentiamo anche le voci di alcuni partecipanti raccolti dalle varie dichiarazioni di queste di sabato soprattutto. Fiduciosi di cosa? Ormai la fiducia è un'altra cosa, è un altro mondo la fiducia. No, rassegnato. Voto no, perché non ne posso più. E mica portai via tutti. No, anche lì hanno le azioni che abbiamo preso la legnata. Domodossola. 5 ore che siamo in pullman. Oh, sentiamo anche per correttezza due brevissimi passaggi. Prima del presidente Pierluigi Bolla, in cui si sofferma sulle colpe del passato, e l'altro invece dell'amministratore delegato Cristiano Carrus, in cui sottolinea la situazione della banca in cui non si riescono a recuperare miliardi di crediti. Per ora i nostri legali hanno ritenuto che paiano effettivamente sussistere allo Stato elementi di fatto e di diritto tali da giustificare ogni iniziativa legale nei confronti di almeno taluni ex amministratori. Scarsa qualità dei crediti, lo abbiamo detto ma lo ribadiamo, 26% che ormai è salito al 28-29%, perché non si dica da parte di qualcuno che ho dato un dato errato o distorsivo, io addirittura anticipo il dato di fine anno. Noi sfioriamo il 30% di NPL e questo è il limite al quale non vogliamo più andare oltre. Oh, chiaramente l'accusa era verso i vecchi vertici e nello specifico l'ex presidente Trinca e l'ex direttore generale Consoli, perché Trinca e Consoli sono stati indagati, e Vincenzo Consoli, il direttore generale, indagati dalla Procura di Roma per ostacolo all'attività dell'autorità di vigilanza, eppure Trinca è indagato. Chiaramente, insomma, le colpe non possono essere fatte ricadere ai nuovi manager, ma ringrazio per averci raggiunto in collegamento il presidente o governatore della Regione Veneto, Luca Zaia. Buonasera Zaia. Buonasera, grazie a voi. Allora, dopo il traffico, io so che lei ha dichiarato, insomma, dall'assemblea dei soci una grande lezione di civiltà, un nuovo corso, deve dare risposte alle istanze dei risparmiatori, però dopo il traffico lei mi deve rispondere a un'altra domanda. Quello che è successo con la Popolare dell'Etruria, con Banca Marche, con Cari Ferrara, con Cari Chieti, in maniera diversissima con Veneto Banca e con casi ancora diversi con la Popolare di Vicenza, non è la fine della retorica della banca del territorio in cui anche lei, come molta parte della Lega, aveva creduto, cioè la banca regionale che sta più vicina agli imprenditori e alle famiglie perché è collocata nel territorio? Qui di banca del territorio abbiamo visto solo lo sfruttamento del territorio, e cioè il fatto che si tenevano assieme i potentati, i consortati in alcuni casi, i soldi, come abbiamo sentito adesso Carrus dire che non si capisce bene sulla base di quale criterio abbiano dato i crediti che diventano poi inesigibili. Cioè non è la fine di un modello per cui la banca popolare con il nome accanto del territorio, che si chiamasse Etruria, si chiamasse Veneto, si chiamasse Vicenza, aveva una sua supremazia morale, etica, che poi alla luce dei fatti si è rivelata non solo non esserci, ma anzi delle volte essere gestita peggio, in maniera più rurale, più provinciale e territoriale della banca grande. Dopo il traffico, la risposta. Focus Economia. Zanetti ha detto: è imbarazzante questo balletto tra Banca Italia e Consob. Ma se lei immagina che io venga il giorno prima di Natale o tre giorni prima di Natale a fare quello che hanno fatto per 40 anni i politici, cioè per scaricare le responsabilità sugli altri, Giletti, lei ha sbagliato persona. Chi ha truffato paga, chi comunque si chiami Giletti, si chiami Renzi. Banca d'Italia e tutte le altre istituzioni godono del rispetto da parte del governo italiano. Oh, così appunto il premier Renzi da Giletti. Ma governatore Zaia, non è la fine di tutta sta retorica, di questa diversità quasi antropologica della banca del territorio? Qui le banche del territorio hanno fregato quasi con più facilità il territorio. Ma guardi, il vero tema è che si pone, cioè c'è un giro di boa, è un cambio epocale, alla stessa trasformazione delle società cooperative in SPA ne è una dimostrazione, peraltro una trasformazione inevitabile, però io direi non della fine della banca di un territorio, bensì della fine delle banche che sono gestite male. Se è vero per la proprietà transitiva che una banca del territorio gestita male deve cambiare, deve chiudere, deve andare in default, quello che è altrettanto vero che anche una banca grande deve fare la stessa fine. vorrei chiedere soprattutto al Presidente del Consiglio, in queste ore pontifica, che differenza c'è tra una banca gestita male dal territorio e Monte Paschi di Siena, con la storia che ha avuto. A me non sembra una banca. Sì, che tra l'altro lei sa che il Monte Paschi si vantava molto di essere la banca del territorio senese. Non era una popolare. Ma, non lo è. Guardi, Monte Paschi. No, è che sto territorio, noi abbiamo la sensazione, Zaia, che il territorio, voglio dire, tanti potentati del territorio, che poi gestiscono le banche in maniera, se possibile, anche peggiore. Cioè, noi siamo andati avanti a sentirci dire che le popolari non dovevano cambiare, cambiano perché gliel'ha imposto il governo. Non c'è stato un amministratore, un governatore, nessuna forza politica che abbia detto in questi anni, perché la banca del territorio era potere anche politico, Zaia, dai, del territorio, lo sappiamo tutti. Cioè, si controllava il territorio e si facevano i crediti, i prestiti. Possiamo una volta per tutte dire che era una grandissima cantonata, cioè tu puoi essere una cattiva banca, sia che tu sia una SPA, sia che ti chiami Popolare Vicenza o Veneto. Ma guardi, io le ripeto innanzitutto che queste banche durante la crisi sono state presenti e si vedono i dati tra impieghi e raccolta. Non si sono date alla macchia come qualche istituto primario a livello nazionale o internazionale, e glielo dico, lei la conosce bene la nostra realtà, da una regione che ha 600.000 partite IVA. Quanto alla politica, è bene anche ricordare che la politica all'interno del CDA di Veneto Banco, di Popolare di Vicenza, non c'è mai andata. Ci sono andati gli industriali copiosamente rappresentati, anche con nomi altisonanti, che non voglio dare colpa agli industriali, però dico che è stata gestita in maniera imprenditoriale. Dico infine una cosa che ritengo doverosa sottolineare, che ad esempio non faccio parte dei governatori che si sono stracciate le vesti per il tema della trasformazione in SPA, piuttosto contestato il tempismo da elefante in cristalleria. Noi non abbiamo garantito un soft landing. Se noi avessimo imposto per decreto anche una società, un'azienda privata con un bel bilancio di andare in borsa con questi tempi, avrebbe avuto difficoltà nella certificazione dei bilanci, in una roadshow inevitabile da fare per trovare acquisitori nei mercati nel momento in cui si va a quotare, per cui cioè, le diceva, più tempo permetteva anche di vendere. Io resto convinto di questo. Lei poi ci aggiunga un altro aspetto, che noi andiamo a quotare delle banche, ripeto, la quotazione è giusta e inevitabile, io ho votato 3 sì, e andiamo comunque a quotare delle banche in un momento nel quale entrerà anche in vigore il bail-in dal 1 gennaio, certo. Per cui in teoria il mercato dei titoli azionari del sistema di credito nazionale avrà anche questo peso in più, perché nel momento in cui io divento azionista di una banca e se la vado a comprare in borsa divento azionista, so che quell'azione comunque sarà soggetta ad un eventuale bail-in. Lei aveva tante azioni di Veneto Banca? Guardi, io le azioni che ho in questo momento sono poche. Non sono è tenuto a dirmelo, è un ma non c'è, guardi, non c'è nessun mistero, male non fare, paura non avere. 500 azioni di Veneto Banca per un controvalore, faccia il conto, 5x4 20.000 euro all'origine, che oggi si sono ridotti di moltissimo. 7x5 35 sono 3.500 euro. E 100 azioni di Popolare di Vicenza. Non ho venduto azioni, l'ultima vendita importante che ho fatto l'ho fatta il 28 febbraio 2009 in tempi non sospetti. Perché qui c'è anche un altro tema di chi ha avuto modo di vendere grossi pacchetti, non parlo dei piccoli, ma grandi quantità di azioni anche negli ultimi periodi. Immagino che anche sarà oggetto di indagine. Zaia, abbiamo ancora 2 minuti scarsi. Mi dica una cosa, lei è più preoccupato per il futuro breve di quello che potrebbe capitare quando prenderanno atto i risparmiatori, chi non l'ha ancora fatto, che il valore delle azioni in Veneto Banca e in Popolare di Vicenza verrà, non dico azzerato, ma ridotto a un sesto? Se va bene. Aspetti, e della reazione dell'opinione pubblica, oppure è più preoccupato nel medio termine che è vero che le popolari non hanno più senso in questo principio distintivo, l'abbiamo già detto, però che insomma di una presenza bancaria, lasci stare che si chiami Veneto, Vicenza o si chiami Milano, Intesa, Unicredit, vatte la pesca, però una presenza seria sul territorio, se decidiamo che il modello, che non basta dirsi popolari per essere veramente del territorio. Io sono preoccupato dei pensionati che a 90 anni si sono visti rifilare le obbligazioni convertendo, quindi si sono trovati azionisti senza saperlo. Sono preoccupato dei tantissimi risparmiatori, queste due banche hanno 205.000 azionisti, e pensi che la sola Veneto Banca ha emesso 122 milioni di azioni. Sono preoccupato dei piccoli azionisti che pensavano di comprare un prodotto finanziario sicuro e che si ritrovano di fatto ripuliti. Penso anche una cosa, che il territorio, comunque questa banca, se ci tiene, se la ricompra sui mercati, tanto è vero che i nostri industriali stanno comunque hanno già fatto un patto di sindacato, già governano il 10% dei titoli e poi tenteranno di comprare, si aggregherà la banca. Il vero tema è che il problema non è la banca oggi popolare piuttosto che domani quella di credito cooperativo, segniamocelo. Il vero problema è il sistema di credito italiano, che non è stato sufficientemente assistito durante questa crisi, a differenza di quello che è accaduto ad esempio in Germania. Ricordiamo ai cittadini che fare banca, fare impresa oggi con una banca vuol dire non far soldi. E quindi o ci mettiamo in testa che la banca è anche una funzione sociale di assistenza alle nostre imprese, alle nostre famiglie, e quindi il governo deve intervenire, oppure va a finire male, ma non va a finire male per i popolari o credito cooperativo, finisce male per tutte. Andateli a vedere i bilanci delle banche, andate a vedere gli incagli e quello che c'è in quei bilanci, e lì si vede che comunque le difficoltà ci sono. Sì, fanno notare, dai, ho capito benissimo cosa dice lei, capisco anche che uno che fa il politico, il presidente di una regione, ha fatto bene a ricordare che voi non avete avuto nessuna responsabilità nella gestione di queste banche. Forse dovevo sottolinearlo ancora di più io. Capisco anche la preoccupazione sua, non dico di ordine pubblico, ma ci siamo vicini, perché quando tu vai a toccare risparmi di interi villaggi, paesi della provincia di Vicenza o della provincia di Treviso, ecco, non è che tutti abbiano, io mi auguro che tutti mantengano la disciplina che abbiamo visto in assemblea sabato, però stai toccando la cosa più cara che hanno le persone. Assieme alla moglie, delle volte anche più della moglie per alcuni. Faccio notare, Zaia, che ci scrivono gli ascoltatori che però le banche hanno avuto 10 anni per cambiare, altro che soft lending. Questo va, l'abbiamo detto molte volte, potevano pensarci un po' prima le stesse popolari, ma non conveniva ai vertici di quelle popolari. Andate a rivedere la storia di quando la Popolare di Vicenza, già debole, vuole comprare la Etruria, e i CDA neanche lo pone in assemblea perché non vogliono smontare il meccanismo di potere della Popolare dell'Etruria, del Lazio, dai. Grazie al governatore Zaia, in bocca al lupo. Vorrei replicare, è una battuta, però, una battuta. No, guardi, vorrei replicare perché io non mi collego per dire cretinate. Quando dico che il soft landing non è riferito al fatto che bisogna aspettare ancora di più, ma è riferito al fatto che nel momento in cui tu dici che devi andarti a quotare, devi dare dei tempi utili per poterti quotare. Ciò non toglie che la quotazione fosse qualcosa di inevitabile, ma io l'ho detto in tempi non sospetti, assolutamente. Quindi, come ho sostenuto in tempi non sospetti che la fusione tra le due banche popolari in Veneto, l'ho sostenuta da solo, come voleva Banca d'Italia, fosse una cosa da fare. Perfetto, grazie anche a Luca Zaia, devo veramente chiudere. Grazie al governatore della Regione Veneto, da Sebastiano Barigioni veramente tutto, ci risentiamo domani, spero con la voce, dalle 17 in poi. Radio 24, la passione si sente.